Mentre se vai, se metti in giro a tardi smagnata, ma c'è pure la sera. Canale 23, se nessuno a canale 23. Se nessuno canale 23. È tutto pieno, c'è un casino di gente. E cosa c'è? Buonasera. Buonasera, sono tutti in FM, ci sono cosa saranno? I russi, i francesi, gli spagnoli, i trick and track, tutti quanti. Cosa ci sei oggi in bicicletta? Certo, lì sì. Sono andato, ho fatto quello che sono arrivato a Sennori, passando da dietro però, dalla strada, faccio la chiesa di San Giovanni, per intenderci, una cosa bianca. Non mi ricordo neanche quanti chilometri sono in tutto lo stato. Comunque era pesantissima, pesantissima, perché tutto il percorso, questo maledetto vento contrario, era una cosa micidiale, guarda. Dai, dico, è ferrato, si è fatto? No. No, ho fatto quella... Ma non so, vabbè, anche andando sull'asfalto oramai hanno ferrato e quindi... Anzi, a volte l'ho ferrato in meglio. Però no, ho fatto la strada normale, sono passato di lì prima la marina, ho proseguito verso l'incrocio di Castelsardo, lì ho girato per andare verso Tegu, dove siamo, o verso Nulvi, non me lo ricordo. E poi ho tirato dritto per quella che va a Usilo, sono salito da lì, da Sennori, stavo là quei tornanti. Ma sempre con la bicicletta da corsa o mountain bike? No, mountain bike. Capito. Quella lì è molto pesante la strada. Poi quando il vento ce l'hai contrario è ancora peggio. Sì, è terribile. È terribile, però sto usando quella per fare quei percorsi, quelle distanze, sto usando quella elettrica, perché già mi fa male il ginocchio, poi c'ho anche il braccio un po' così dalla caduta, quindi è meglio usare quella elettrica, che poi arrivo a consumare su 100, arrivo a... non sono neanche arrivato a 75, guarda, arrivo a 85 giù di lì, perché la maggior parte dei chilometri comunque me li faccio in mountain bike, solo che avendo quel peso considerevole, insomma, anche se la metti a uno ti stai togliendo forse metà del peso della bicicletta, perché è molto pesante. La verità, la batteria solo pesa 3 kg, poi c'è lo zainetto appresso, già lo sai, i tubi sono sovradimensionati per reggere il carico, insomma una bella faticaccia comunque. Sì, ho capito, solo che bisogna fare qualche sforzo in più con quella. Ti aiuta, però molte volte è pesante a farla. Sì, è vero, aiuta. Guarda, io sto trovando, siccome io uscivo anche un po' la normale, ancora prima uscivo un po' la raccolta, quindi quelle salite le ho fatte tutte anche, diciamo, senza assistenza, ecco. però qua c'è, soffro un po' perché è di quelle moderne, no? Che praticamente la corona è singola, mentre c'ha molto, dietro c'ha molte, c'ha molti cambi, c'ha nove possibilità di velocità, però non ci arrivo a usarlo, praticamente se metto la massima io non so a cosa serva neanche, perché probabilmente mi cado dalla bici, perché anche se giri a 80 giri i pedali non cammini praticamente, sono cose proprio da Monte Bianco quelle. Quindi stavo pensando di metterci una corona un pochettino più grande, perché utilizzo solo praticamente quelle, le prime tre marce. Sarà più piccola, alla media, alla più grande, così è. E poi c'è gli altri tutte più andando in grande, così. Sì, esatto. Però già con la grande non ti serve a niente, cioè la velocità deve essere totalmente bassa, ma anche come salita poi sì, ti fa fare la salita anche senza motore, però è una cosa che esaspera, capito? Non ci sono abituato, allora lo devo sentire. Ti fa una cosa un po', magari loro lo sanno come va utilizzata e cose, però molte volte guardano le salite e dicono in questa salita vuole leggera. Sì, ma non fa neanche col motore, capito? Cioè non puoi neanche attaccare il motore lì, perché se attacca il motore giri a vuoto praticamente, senti le spinte ma non va, è troppo esagerato. Mentre invece col primo, secondo, terzo, anche il quarto, che sono quelli praticamente per correre, allora già si sente, però secondo me è troppo piccola la corona. Forse ovviamente loro la fanno anche per chi non c'ha nessun allenamento, giustamente, però chi ne ha un po' magari soffre un pochino, ecco. E quello sì, già è così, ma il fatto che loro pensano al coso più leggero, però no, non fa. Vabbè, ma di lì c'hanno, di lì dopo li usano con le biciclette, c'hanno salite che noi, forse andando di lì a coso, all'Imbara, puoi trovare, ma neanche, perché sono proprio montagne sul serio, e quindi corrono quei rapporti lì. Per noi, diciamo, sono un po' esagerati, ecco. Magari andando da quelle parti e coso l'Imbara o alla parte di, dico, in montagna proprio, per quelle lì forse riesci. Io invece che uso la bicicletta elettrica mi uso la bicicletta mountain bike normale, eppure no, con l'elettrico no, è che mi diverta molto. No, io mi diverto di più, perché paradossalmente la bicicletta mi ha spiegato quel tipo di bicicletta che a prescindere lei, anche senza motore, è più veloce di quella che avevo prima. Io prima faticavo molto di più, perché c'avevo la ruota da 26, avendo la ruota da 26, io pedalavo, però ovviamente con la ruota che è piccola, la gente mi sorpassava, perché praticamente per fare un metro io faticavo più di loro, che un colpo solo in una pedalata ne facciamo due, in parole povere. Figurati cos'è la 29. No, perché io ho la 27, e come cosa a me, quando mi sorpassano mi volta andare, ma poi me le ritrovo in salita che li sorpasso tutti io. Lo so. Quella è salita a tirarla, ti viene un po' male. Sulla salita ripida magari forse mettendo quelle marce deve essere ridotte, la sale tranquillamente, però volendo farla di agilità ti viene molto molto male, perché la bicicletta supera i 20 kg, 25 kg dovrebbe essere, quindi c'è un sorpeso rispetto all'altra che non pesa un accidente. Però l'altra anche in discesa ho visto che non è così veloce, capito? Però la maledetta prende subito velocità, forse anche perché è più pesante, boh. E l'altra sì, fa gli ferrati, fa tutto quello che vuoi, però quella là è più agile e anche più sicura, perché avendo la ruota più grande, se incontri sassi è più sicura, capito? Vero che sullo sterrato sopporta meglio il terreno accidentato, perché praticamente la ruota è più alta, quindi avvolge meglio l'ostacolo. Ho capito, sì, quella che c'ho io. Tu c'avevi, cosa c'avevi? L'altra, c'avevi la 26. Sì, ce l'ho sempre, da competizione, da Macararo, in alluminio, montata parte Shimano e parte di, adesso non me la ricordo, l'altra marca, e comunque sempre di fascia medio-alta, quella è già da competizione, però essendo la 26 deve girare i pedali. Io ho la 27 che è un bombo che va, che mi va benissimo come cosa, me l'hanno data giusta al mio coso. Stavo chiedendo la 29, io mi hanno detto che era troppo grande per me. Non è esattamente così. Allora, la 29 la puoi prendere tranquillamente. Quello che interessa è che sia il telaio che lo adatti, capito, dalla tua grandezza. Poi il cerchio della ruota è una cosa soggettiva. Diciamo che la 27,5 per essere esatti, perché la misura è quella, cioè 26, 27,5 e 29. La differenza è che la 27,5, essendo una via di mezzo, è più stabile dal punto di vista, se fai serrato un po' impegnativo, e curve strette, mentre invece quella la 29 inizia a essere un pochettino più complicata per fare le curve, ecco, da stare un pochettino più attenti, o anche se avanti ieri scendendo ci stavo per uscire per un pelo, ho preso la curva troppo veloce perché c'era la macchina dietro, era a 40 lì su quelle discese lì, come si chiama, per andare a Castelsardo, per un pelo cesco. Comunque bisogna stare attenti con la velocità, perché ti butta fuori come nulla, ti butta fuori. A me me l'ha fatto giù quasi vicino a Plattamona, prendendo la curva, la faccio mai, ho trovato un po' di sabbietta, vroom, e mi sei scida. No, quello meno male, l'ho provato anche sulla sabbia, sembra che ci abbiamo un buon grip per questo. Quello succede quando le ruote, magari i copertoni sono un po' più fini, e infatti li sconsigliano, se c'è sabbia, quella cosa lì, sono pericolosi. Meglio un po' più largo, fatti chi di più pazienza, però c'è più aderenza. Io ci ho messo il copertone da strada, ci ho messo, perché me la stavo facendo tutta in strada, e le cose in serrata non ne stavo facendo per niente quasi, mi sono messo i copertoni da strada, sono tipo da corsa sono, ah, ho trovato la sabbietta e si scinda. Infatti quelli non li ho mai messi io, quelli slim, quelli stretti, perché sono un po' a rischio, poi la mountain bike è fatta per poter uscire, anzi io non uso quella raccolta proprio per essere sicuro, perché già con la mountain bike, anche stamane, guarda, mi stavano schiacciando, un imbecille, un tir, si è messo a superare su una specie di dosso, al momento si schianta con un motociclista e a me mi stava schiacciando, perché è rientrato di colpo, non ho visto altro che tutto l'articolato che stava venendo mai addosso. Allora, no, con quella raccolta oramai ci ho fatto la croce, purtroppo mi dispiace, anche un'ottima bicicletta, la Colnago, montata a Campagnolo, però no. Di lì veramente ho paura, ne ho viste troppe e non vorrei che magari poi fosse la volta buona per cadere veramente male. Sì. Io invece no, l'ho provata su strada, andava benissimo. Adesso l'ho messa da una parte, la sto lasciando. Inizierò quando comincio a fare un pochettino di freschino. Ah, ma non mi conviene. Sono il tipo che con il caldo non ci sto io. No, ma non è possibile non parlare, guarda per le strade che vedo io, non farebbe, c'ho terrore poi che mi capisci il buco in discesa e la onda buona è mamma, perché quella raccolta è troppo fina, troppo delicata, basta un po' di sabbia, un pochettino di, un buco un pochettino più spaccante il cerchio, no? Basta così, si rimane lì. No, io l'unica cosa che se devo fare sterrato, cambio i cerchioni e vado su sterrato. Ma ci metto poco, 2 minuti e sono pronto. No, io utilizzo sempre quelli larghi, tanto sono i cerchi, sono Ambrosio. Quindi non possono godere. Mi sento un attimino che si stanno afferrando i gatti, volevo vedere cosa stiamo combinando. Oh, chi è questo? Buonasera. Che dipende questo buonasera? Lo devi riconoscere, entro lì giù. Noi tutti. Ciao signor Gianni, buonasera. Ciao, ma com'è? Ciao. Ce l'ho vedo ci scende. Prima ti indui, siamo entrati ero io e tutta chi c'è la popolazione che veniva pura. E poi è entrato. Ma non me ne metto più in questo giamma. E vabbè, da. No, io poco fa ho acceso, non c'era nessuno, detto voi, deve essere stasera non entra nessuno. No, è entrato, stavamo parlando di biciclette. Stavamo parlando. È tutto andare. Sì, già ho sentito. Perché nella macchina viene un po' male cambiare i cerchioni in 5 minuti, Quelli che ho io ho quelli da strada e quelli da serrato, cioè, me lo sono fatti così. È una mountain bike normale, tipo leggera, però ce ne ha tutti. Ma non è col motore? Ah, no, non ce l'ho col motore, no. Non ne ho molti soldi io da spendere per prendermi una elettrica. E poi quando finisce la batteria a trovarla, lui? A trovare già ci sono le batterie di ricambio, già si trovano. Sai che costa neanche una bicicletta? Il motore costa 3,50. Pensa un po' che sulla batteria qui diventa 10,20. Che ci avevano quel nullo che girava nella ruota di dietro e le faceva camminare. Ma quella è per rimanere fissa a casa e con il rullo dietro. Noni, cosa fissa a casa, camminavano col motore, erano biciclette a motore, c'era il motore 50, ti mettevi la benzina, avevano questo rullo che toccava la ruota e la faceva girare e accelerava, è presente il coso dell'aria che si usa la moto zappa eccetera eccetera, c'erano la levetta così, si accelerava con quello. Ah, quelle che ne è già conosciuta quella lì. Beh, ma ti parlo di tempo addietro e non adesso. Già esistevano, ma consumavano, non dico copertoni, perché il rullo girava su copertone. Infatti girava su copertone. No, ma c'era anche che se volevi, se mettevi, potevi mettere anche la catena, se volevi. E andava a mettere, aggiungere un pignoncino e la facevi andare con la catena. Oh. Sì, invece che cose con la gomma. Se toglievi quello lì, ci aggiungevi il pignoncino e mettevi il pignoncino. Vedrai che non ne consumavi di copertone. Io quando le ho conosciute non con quel coso lì, con quel perno lì, con la gomma, ma però con il pignoncino le ho conosciute. No, io le ho viste col rullo sul copertone di dietro. C'era questo rullo che appoggiava, tu abbassavi la leva, appoggiava questo rullo al copertone, perché potevi usare sia come bicicletta che come bicicletta a motore. Naturalmente pesava di più, perché col motore, ti puoi immaginare, c'era serbatoio eccetera eccetera. Ma con il pignoncino rimaneva più leggero a andare, e invece con il rullo ti andava più pesante, ma molto più pesante. Praticamente ci provo. Cosa? Ciao Gianfra. Ciao ciao, praticamente in realtà era un ciclomotore quello lì. Si chiamavano biciclette a motore. Ma sono vecchie, sono parecchio, ora non più ovviamente, ma stiamo parlando proprio anni 40, 45, quelle date lì. Cioè avevano questo sbattuglio tipo fiaschetta, tonda. No, c'avevano anche i serbatoi rettangolari dietro nel portabagagli. C'era la marmettina piccola, ma se la toccavi ti bruciavi. Ma c'erano quelli anche degli anni 80, anni 90, che era la Matessigosa. Erano, però andavano, io mi ricordo che andavano. Vabbè, niente a che vedere comunque con la tecnologia di adesso. Mi piacerebbe provare una bicicletta di quelle che superano 10.000 euro, a vedere la differenza, quelle elettriche di ultimissima generazione. Dicono che non si vede neanche la batteria. Per 10.000 euro mi compagno il T-Max, che se mi compagno la bicicletta per 10.000 euro, il T-Max mi compro. Tore, cosa ci avranno di speciale? Io, guarda, con 10.000 euro mi aveva fatto una vacanza, ma in questi 2 mesi. Già lo credo. Io eppure c'è gente che se la può permettere. Costano anche più di 10.000 alcune, le ho viste. Ma sono follie. La gente proprio che non sa cosa farne nessuno. Ma infatti in proporzione di mi compro lo scooterone che 500, cazzo, che ruba 3.000 volte di più, ti fa 170-180 di velocità, lo coverisci piuttosto che la bicicletta. Ma sai cosa ha fatto Megugnando? È salito a Napoli, ci ha preso una moto BMW, ma dura, 1200 di cilindrata. Tu la devi vedere con 5.000 euro. Insomma, a Napoli ci sono anche sorprese, occhio. No, se ne l'ha scesa lui, gliel'hanno portata con il camion a Civitavecchia e poi se l'ha imbarcata ed è venuto in moto da Olbia, è venuto in moto. Quindi pensa un poco, ha pagato 5.000 euro, assicurata e tutto. Ma nuova? Quasi nuova, pochi chilometri e tutto. Da internet l'ha presa. Vista in internet, poi ha telefonato a questo qua della concessionaria, gli ha bloccato il prezzo e salito, gli hanno portato a Civitavecchia e se l'ha scesa giù. ha pagato 5.000 euro. Il passaggio non gliel'hanno fatto? Direttamente lì gliel'hanno fatto il passaggio, direttamente lì, ci ha portato un certificato di residenza, ci ha portato e l'ha fatto tutto lì il passaggio. Vabbè, che i passaggi sono una cavolata a fare, ma in un'agenzia te li fanno in un attimo. Lì beh, gliel'hanno consegnato anche subito, gliel'hanno consegnato. Di quelle Gran Turismo ha preso, dai. Scusate, ce l'ha, ce n'è uno o due, ce ne sono a Sassari. Quelli con i cofani dietro, con antenne dietro, spesso. Questa è quasi precisa. Ah, ho capito, qui con le moto un bel grosse sono. Ho capito. C'è anche della Honda con la moto lì. C'è anche della Honda, questa soltanto che è BMW. Ma è una moto da grossa, pensa un poco. Vabbè, che è maduro, mi gugnato, ma cazzo, 5.000 euro, pensa un po', anche che 10.000 euro era. Non c'è disperato anche questo? Sì, è a marce, c'ha le marce, c'ha. Infatti, ma ha fatto un giro, ma ha fatto, mi si da tutto d'ora. Ha detto, no, torna a casa, che è meglio. Ha succedi? No, ero tranquillo, perché so come guida mio cognato e poi la moto era tranquilla. Non ti dia nulla, scusa da Darido. Cosa vogliamo dire? Allora, io ho visto la Harley Davidson così, c'aveva anche il baracchino, c'era il baracchino e la radio. L'ho vista dal meccanico, ferma, e ho chiesto al padrone, ma come fate a modulare? No, di solito ci faccio ascolto. Però nel casco ci abbiamo il microfono con le cuffie, che praticamente ascolta e parla. Lo sto usando io adesso, quello lì, quell'apparato lì, con la cuffietta e il microfono. E si sente bene? Se posso dire, si chiama con il coso Vox. Con Vox, sì, è proprio. Perché tra praticamente ogni rumore che fai, che senti, che sente? Ti entra dentro l'orecchio, ti entra. Oh, vabbè, che il rumore ne senti poco e nulla. Moniosco e sente misurare soltanto pulizia e coso. Non senti tutto quello coso di questi qua da lontano e cose. Se devi parlare con quello che è davanti a te, ci parli tranquillo. Ah, ecco. Ciao, va bene. Sto usando io, è l'Intec, 898. Ah, ce l'ha di serie? Ce l'ha di serie, due auricolari, c'ha un auricolare con microfono, e più c'ha un altro pulsante che puoi usarlo attaccato al cambio, alla leva del cambio. Ah, però fa vedere col microfono in mano. Infatti, fa parte con il telefono in mano. Fai il squillaggio bagato, 95 euro, quindi ti sei truffo, ma lo cade tu. Ma va bene. Perché c'ha subito, va bene. Avanti, già fra. Ho rimasto fitto, perché mi va la cena. Tanta volta, preparazione è una maniera pazzesca. Segnali tutti oltre il 9. Va bene ragazzi, buona serata, sentiamo, ma vado a mangiarmi qualcosa. Ciao ciao. Ciao Gianfra, dove la senti questa propaganda? In FM soprattutto, in FM è pazzesca. Ah, ecco, io ho preso un finisco. Sì, non senti, questo è il fenomeno. E già li sento, sì, ma non così alto. Avanti, Tony. Già si sentono, molte volte li sento io, ed ecco, salgono più, quelli Gianfranco salivano, molte volte Gianfranco lo ascoltavo poco, però, Dana, le buone FM intermedio a Edi. Meglio, sento meglio a te. Infatti no, qua le cose ma tanti già stanno più edi che lui. Sono esagerato. Sono un po' di giorni che non sento Gio Maria. E magari ha un po' gente a casa. chissà, a rimanere che entrava anche giù, giù. Un po' come ti si chiama, ma non mi metto più. Grazie. Piano, oi. Sai che ho ventato bandita. E anche le voci che a parte di curarci con la garabina. Sì, l'abbiamo fatto altro. Però io sono di soggi in giro io, da gira. Che sono venuto lungo, sono piacendo gli anni. Certo, il mio travaglio. Io cazzo mi lascio la carabina, ma la uso un po'. Io ce l'avevo e l'ho regalata. No, non mi interessava per niente. Mi... c'ho la doppietta che è tutta rimontata, denunciata, ogni tanto viene a farmi visita. Ah, vero? Sì, vengono ogni tanto i poliziotti e mi chiedono del fucile. Un biglio, avevo dopo tutto rimontato, sette di virus. Ma a caccia vai? No, era di mio zio, era, poi l'aveva preso mio padre, era mio padre, l'ho preso io. Neanche mio fratello l'ha voluto. Perché un'arma in casa è sempre... E cosa c'è? Permesso oppure ti hanno fatto regolare di cosa? Posso dare? Ciò è denunciato solo, la denuncia solo ciò. Ed è smontato, ogni tanto lo prendo, lo pulisco, lo torno a passare l'olio che ci vuole e tutto lo tengo in perfette condizioni. Perché loro vogliono che sia lubrificato e tutto quanto, non vogliono che sia più tanto malandato, ecco cos'è, lo devi tenere un pochettino in buone condizioni. Beh, to, io me la andiamo a mangiare, dai. Ci sentiamo, buona serata, ciao! Sì, buon appetito, sto andando a cenare, buona cena, ok, ciao, ci sentiamo Gianni. Ciao, sto attrezzato, ciao.